Accampati nella prateria. Come al solito, papà preparò il bivacco. Prima staccò Pet e Patty dal carro, tolse loro le bardature e li legò con una corda a un piolo di ferro infilato nel terreno. Quando i cavalli erano legati in questo modo, potevano mangiare l'erba tutto intorno, spostandosi quel tanto che la lunghezza della corda permetteva. Ma quando Pet e Patty furono legati al piolo, la prima cosa che fecero fu sdraiarsi e rotolarsi a terra. Si rotolarono finché non si furono scrollati di dosso la sensazione di avere ancora la bardatura. Mentre Pet e Patty si rotolavano, papà strappò l'erba in una porzione di terreno ampia e circolare. C'erano erbe secche ai piedi di quelle fresche e papà non voleva certo rischiare di incendiare la prateria. Se il fuoco avesse attecchito nell'erba secca, avrebbe carbonizzato il paese intero. Papà disse: "Meglio fare attenzione per non rischiare di combinare guai." Quando lo spazio fu ripulito, papà mise una manciata di erba al centro. Dalla riva del fiume aveva portato un fascio di bastoncini e pezzetti di legno. Mise i bastoncini piccoli sopra l'erba, poi quelli più grandi, poi il legno e accese. Il fuoco scoppiettò allegramente nel cerchio di terra brulla da cui non poteva uscire. Poi papà portò acqua dal ruscello mentre Mary e Laura aiutavano mamma a preparare la cena. Mamma dosò il caffè nel macinino e Mary lo macinò. Laura riempì la caffettiera con l'acqua che papà aveva portato e mamma la mise sulle braccia e ci mise anche il fornetto di ferro. Mentre scaldava, mescolò il mais con acqua e sale e preparò dei piccoli tortini. Unse il fornetto con il grasso di maiale, ci mise dentro i tortini e sopra il coperchio di ferro. Papà mise altre braci sul coperchio, mentre mamma affettava il lardo, che poi fece friggere nella padella di ferro con i piedini. Se non avessi avuto quei piccoli piedi per reggersi sui carboni, sarebbe stata una semplice padella per friggere. Il caffè bolliva, i tortini erano pronti, la carne era cotta e l'odore era così buono che Laura era sempre più affamata. Papà mise il sedile del carro vicino al fuoco. Lui e mamma vi si sedettero sopra. Mary e Laura sedettero sull'asta del carro. Ciascuno di loro aveva un piatto di stagno, un coltello, una forchetta d'acciaio con manici bianchi di osso. Mamma e papà avevano una tazza di stagno ciascuno e la piccola Carrie ne aveva una piccolina tutta per sé, ma Mary e Laura dovevano dividersi la loro. Bevvero acqua, non avrebbero potuto bere il caffè finché non fossero cresciute. Mentre cenavano, le ombre viola si strinsero intorno al fuoco. La vasta prateria era buia e silenziosa. Solo il vento muoveva appena i fili d'erba, mentre le grandi stelle scintillavano, vicine, standosene appese al cielo immenso. Il fuoco era gradevole nel buio e nel freddo della notte, le fettine di lardo erano grasse e croccanti, i tortini di mais deliziosi. Nel buio, oltre il carro, anche Pet e Patty stavano mangiando, strappavano ciuffetti d'erba con i denti e masticavano rumorosamente. "Ci accamperemo qui per un giorno o due," disse papà. "Potremmo anche fermarci, c'è terra buona, legna lungo il ruscello e un sacco di selvaggina, tutto ciò che un uomo potrebbe desiderare. Cosa ne pensi, Caroline?" "Potremmo proseguire, ma non è detto che troveremo di meglio," rispose mamma. "Comunque domani darò un'occhiata in giro," concluse papà. "Prenderò il fucile e vi porterò della buona carne fresca." Si accese la pipa con una brace ardente e stese comodamente le gambe. L'odore caldo del fumo da tabacco si mischiò con il calore del fuoco. Mary sbadigliò e scese dall'asta del carro per sedersi sull'erba. Anche Laura sbadigliò. Mamma lavò in fretta i piatti di stagno, le tazze, i coltelli, le forchette, lavò il fornetto e la padella con i piedini, poi sciacquò lo straccio per i piatti. Per un attimo si fermò ad ascoltare il lungo, triste ululato proveniente dalla prateria buia. Sapevano tutti cos'era, ma quel suono dava sempre a Laura i brividi lungo la schiena. Mamma scosse lo strofinaccio, poi si diresse verso il buio e lo stese sull'erba alta ad asciugare. Quando tornò indietro, papà disse: "Lupi, a mezzo miglio da qui, direi. Beh, dove ci sono i cervi ci sono i lupi, vorrei..." Non disse che cosa avrebbe voluto, ma Laura lo sapeva. Avrebbe voluto che Jack fosse stato lì. Quando i lupi ululavano nei grandi boschi, Laura sapeva che Jack non avrebbe permesso loro di fare alcun male. Un nodo le si formò in gola e il naso le prudeva, strizzò gli occhi e trattenne le lacrime. Quel lupo, forse un altro, ululava ancora. "Bambine, è ora di andare a dormire," disse mamma allegramente. Mary si alzò e si voltò perché mamma le sbottonasse il vestito, ma Laura si alzò e rimase ferma. Aveva visto qualcosa in mezzo al buio, oltre il fuoco. Due luci verdi brillavano non lontano dal terreno. Erano occhi. Un brivido percorse la schiena di Laura, la pelle le si arricciò sulla testa e le si drizzarono i capelli. Le luci verdi si mossero, un occhio si chiuse, poi l'altro, poi entrambi tornarono a brillare, avvicinandosi. Guarda, papà, guarda, disse Laura, un lupo! Papà non sembrò muoversi velocemente, ma in un attimo aveva preso il fucile da dentro il carro ed era pronto a sparare a quegli occhi verdi. Gli occhi si fermarono, continuavano a fissarlo nel buio. Non può essere un lupo, a meno che non sia impazzito, disse papà. Mamma mise Mary nel carro. E non lo è. Ascoltate i cavalli, disse papà. Pet e Patty continuavano a mangiare l'erba. Una lince, disse mamma, o un coyote. Papà prese un bastone di legno, urlò e lo lanciò. Gli occhi verdi si avvicinarono al suolo, come se l'animale si stesse preparando a saltare. Papà era pronto con il fucile. La creatura non si mosse. Non farlo, Charles, disse mamma. Ma papà si avvicinò lentamente all'animale e gli occhi lentamente avanzavano verso di lui. Laura vide l'animale al confine dell'oscurità. Aveva il pelo fulvo e striato. Poi papà urlò e Laura gridò. Un attimo dopo stava cercando di abbracciare Jack, che saltava, ansimava, si contorceva e le leccava la faccia e le mani con la sua lingua umida e calda. Non riusciva ad acchiapparlo. Jack saltava e correva avanti e indietro, da lei, da papà, da mamma e poi di nuovo da lei. Beh, sono esausto, disse papà. Anch'io, ma dovevi proprio svegliare la bambina, disse mamma, cullando Carrie e cercando di calmarla. Jack stava benissimo. Dopo un po' si sdraiò, sospirando accanto a Laura. I suoi occhi erano rossi di stanchezza e la parte inferiore del corpo era incrostata di fango. Mamma gli diede un tortino di mais che lui leccò, scodinzolando educatamente, senza però riuscire a mangiarlo. Era troppo stanco. Chissà per quanto tempo avrà nuotato, disse papà, e fin dove la corrente lo avrà trascinato prima che riuscisse a raggiungere la riva. E quando finalmente li aveva raggiunti, Laura lo aveva scambiato per un lupo e papà minacciava di sparargli. Ma Jack sapeva che non lo avevano fatto apposta. Laura gli chiese: Lo sai che non l'abbiamo fatto apposta, vero Jack? Jack agitò la sua piccola coda, lo sapeva. Era ora di andare a dormire. Papà legò Pet e Patty alla mangiatoia dietro al carro e diede loro del mais. Carrie si era riaddormentata e mamma aiutò Mary e Laura a svestirsi. Infilò loro la testa nelle camicie da notte mentre le bambine cercavano di infilarsi le maniche. Si abbottonarono i colletti da sole e si legarono sul mento il nastro della cuffia da notte. Sotto il carro Jack, sfinito, si girò e si rigirò 3 volte prima di addormentarsi. Nel carro, Laura e Mary dissero le preghiere e si misero a letto. Mamma diede loro il bacio della buonanotte. Al di là del telo che ricopriva il carro, Pat e Patty mangiavano il loro mais. Quando Patty cominciò a prendere il mais dalla mangiatoia, il rumore arrivò proprio all'altezza dell'orecchio di Laura. Strani suoni provenivano dall'erba. Tra gli alberi vicino al ruscello un gufo cantava «uh, uh, uh, uh». Da lontano un altro gli rispondeva «uh, uh, uh, uh». Lontano, nella prateria, i lupi ululavano e sotto il carro Jack russava. Ma all'interno si stava comode e al sicuro. Dal carro aperto si vedevano le stelle, fitte e luccicanti. Laura pensava che papà avrebbe potuto toccarle. Sperava che prendesse la più grande, staccandola dal filo al quale era appesa al cielo e che gliela regalasse. Era completamente sveglia, non aveva affatto sonno, ma a un certo punto, sorpresa, la grande stella le fece l'occhiolino. Poi si svegliò ed era mattina. Un giorno nella prateria. I cavalli nitrivano nell'orecchio di Laura. Il mangime sbatteva rumorosamente nella mangiatoia. Papà stava dando a Pet e Patty la colazione. Stai indietro, Pet, non essere avida, lo sai che è il turno di Patty. Pet diede un colpo con la zampa e nitrì. Adesso, Patty, stai al tuo posto, disse papà. Questo è per te, Pet. Patty emise un piccolo gemito. Ah, ti sei morsa la lingua, eh? Disse papà, e mangia come si deve, ti ho detto di mangiare il tuo mais. Mary e Laura si guardarono e risero. L'odore della pancetta del caffè e lo sfrigolio di pancake le fece balzare giù dal letto. Mary sapeva vestirsi da sola, a parte il bottone di mezzo. Laura glielo abbottonò, poi Mary abbottonò il vestito di Laura dietro la schiena. Si lavarono le mani e il viso nella bacinella che stava sulla scaletta del carro. Mamma districò i capelli a entrambe mentre papà portava acqua fresca dal ruscello. Poi Sedettero sull'erba verde e mangiarono pancake, pancetta e melassa tenendo in grembo i piatti di stagno. Tutto intorno le ombre si muovevano sull'erba ondeggiante mentre il sole sorgeva, le allodole spuntavano dall'erba e si libravano cantando nel cielo terso, piccole nuvole bianche alla deriva in mezzo al blu. Sull'erba tanti uccellini si dondolavano cantando con le loro vocine. Papà disse che erano spizze americane. Spizza, spizza, chiamava Laura. Uccellino! Mangia la tua colazione, Laura, disse mamma. Dovresti ricordarti delle buone maniere anche se siamo lontani da tutto e tutti. Papà osservò gentilmente. Siamo solo a 60 km da Independence, Caroline, e c'è senz'altro qualcuno che vive non lontano da qua. Beh, 60 km allora, disse mamma, ma in ogni caso non è educato cantare a tavola o mentre si mangia, aggiunse, visto che non c'era nessuno a tavola. C'era solo un'enorme, vuota prateria con l'erba attraversata da onde di luce e ombra e sopra l'immenso cielo blu e gli uccelli che volavano sull'erba, cantando di gioia perché il sole stava sorgendo. E in tutta quell'enorme, immensa prateria non c'erano segni del passaggio di altri esseri umani. In tutto quello spazio di terra e cielo se ne stava solitario il piccolo carro coperto e vicino al carro sedevano papà e mamma, Laura, Mary e la piccola Carrie che facevano colazione. I cavalli masticavano il loro mais e Jack sedeva in silenzio cercando di trattenersi dal chiedere cibo. A Laura non era permesso dargli da mangiare mentre stava mangiando a sua volta, ma tenne dei pezzetti da parte per lui. E per finire in bellezza, mamma gli preparò un grosso pancake. L'erba era piena di conigli e c'erano migliaia di polli nella prateria. Ma Jack non poteva cacciare la sua colazione quel giorno. Papà sarebbe andato a caccia e Jack doveva sorvegliare l'accampamento. Prima papà legò Pet e Patty al loro piolo, poi staccò dal fianco del carro la tinozza di legno e la riempì d'acqua del ruscello. Mamma avrebbe fatto il bucato. Poi papà si infilò l'ascia ben affilata nella cintura, appese il corno per la polvere da sparo vicino all'ascia, si mise la scatoletta degli attrezzi e l'astuccio delle pallottole in tasca e imbracciò il fucile. Prenditi tutto il tempo che ti serve, Caroline. Non sposteremo il carro finché non lo decidiamo noi. Abbiamo tutto il tempo. Papà se ne andò. Per un po' riuscirono a vederlo spuntare tra l'erba alta e diventare sempre più piccolo man mano che si allontanava. Poi lo persero di vista e la prateria apparve di nuovo vuota. Mary e Laura lavarono i piatti mentre mamma rifaceva i letti nel carro. Misero a posto i piatti puliti nella cassetta, raccolsero qualche legnetto che buttarono nel fuoco e accatastarono la legna contro una delle ruote del carro. Ora l'accampamento era in ordine. Mamma andò a prendere nel carro la ciotola di legno del sapone, si tirò sulla gonna e le maniche, si inginocchiò sull'erba vicino alla tinozza, lavò le lenzuola, le federe, la biancheria, lavò i vestiti e le camicie, li sciacquò nell'acqua fresca e li stese sull'erba perché asciugassero al sole. Mary e Laura esploravano i dintorni. Non dovevano allontanarsi dal carro, ma era divertente correre in mezzo all'erba alta con il vento e la luce del sole. Grossi conigli scappavano saltando davanti ai loro occhi. Gli uccelli volavano via, poi tornavano a posarsi. Le spizze americane erano ovunque. Costruivano i loro nidi nell'erba alta e ovunque c'erano piccoli gopher a strisce marroni, dei piccoli roditori. Queste creaturine sembravano soffici come il velluto, avevano occhi tondi e brillanti, nasi rugosi e zampe minuscole. Spuntavano dalle loro tane scavate nel terreno e restavano lì a guardare Mary e Laura, con le zampette posteriori ripiegate sotto le anche, quelle anteriori contro il petto. Sembravano pezzi di legno secco infilati nel terreno. Solo i loro occhi scintillavano. Mary e Laura volevano prenderne uno per portarlo a mamma. Tante volte furono a un passo da riuscirci. Il gopher rimaneva immobile finché, sicure di acchiapparlo, le due bambine si ritrovavano un attimo dopo a mani vuote. Restava solo il buco nel terreno. Laura corse e corse senza riuscire a catturarne uno. Mary sedette immobile vicino a un buco aspettando che spuntasse l'animaletto, mentre alle sue spalle i gopher scorrazzavano allegramente oppure si sedevano a guardarla. Ma nessuno di loro uscì da quel buco. Poi un'ombra si posò sull'erba alta e tutti i gopher scomparvero. Un falco volava sulle loro teste. Era così vicino che Laura poteva vedere i suoi occhi tondi e spietati che guardavano in basso verso di lei. Vide il becco affilato e gli artigli incurvati, pronti ad afferrare la preda. Ma il falco non vide nient'altro che Laura e Mary e tanti buchi vuoti nella terra, e così se ne andò a cercare altrove il suo pranzo. Allora tutti i piccoli gopher tornarono. Era quasi mezzogiorno e il sole era alto in cielo, così Laura e Mary raccolsero dei fiori e li portarono a mamma al posto del gopher. Mamma stava piegando la biancheria asciutta, le loro sottane e mutandine erano più bianche della neve, scaldate dal sole, e profumavano di erba fresca. Mamma le mise nel carro e prese i fiori, ammirò in egual maniera i fiori che le diede Laura e quelli che ricevette da Mary e li mise tutti insieme in una tazza di stagno piena d'acqua. Poi li poggiò sulla scaletta del carro per decorare l'accampamento. Divise due tortini di mais e li spalmò di melassa, ne diede uno a Mary e uno a Laura. Quello era il loro pasto ed era buonissimo. Dove sono i piccoli pelle rossa, ma? Non parlare con la bocca piena, rispose lei. Laura masticò, ingoiò il suo boccone e disse: Voglio vedere un piccolo pelle rossa. Per carità, disse mamma, per quale motivo vuoi vedere gli indiani? Ne vedremo abbastanza, anche più di quanto vorremmo, ne sono certa. Non ci faranno del male, vero? Chiese Mary. Mary era sempre brava, non parlava mai con la bocca piena. No, rispose mamma, non metterti queste idee in testa. Perché non ti piacciono gli indiani, ma? Chiese Laura, raccogliendo con la lingua la melassa gocciolante. No, non leccarti le dita, Laura, disse mamma. Questo è il paese degli indiani, giusto? Disse Laura. Perché siamo venuti nel loro paese se non ti piacciono? Mamma disse che non sapeva se quello fosse il paese degli indiani o no, non sapeva dove fosse il confine del Kansas, ma che lo fosse o no, gli indiani non ci sarebbero rimasti a lungo. Papà aveva sentito dire da un signore a Washington che presto il territorio indiano sarebbe stato aperto ai coloni. Loro non potevano saperlo, perché Washington era molto lontana. Poi mamma prese il ferro da stiro e lo scaldò sul fuoco. Spruzzò un po' d'acqua su un vestito di Mary, su uno di Laura e su un vestito di Carrie e sul suo abito a fiori. Stese una coperta e un lenzuolo sul sedile del carro e stirò i vestiti. La piccola Carrie dormiva nel carro. Laura, Mary e Jack erano sdraiati sull'erba all'ombra, lì accanto. Il sole era molto caldo adesso. La bocca di Jack era aperta, la lingua rossa penzolava fuori, gli occhi assonnati si chiudevano. Mamma canticchiava dolcemente mentre il ferro spianava tutte le pieghe dei vestitini. Tutto intorno a loro, ai confini del mondo, non c'era altro che erba che ondeggiava al vento. Su in alto, batuffoli di nuvole solcavano il cielo blu. Laura era molto felice. Il fruscio del vento nell'erba sembrava una canzone e il canto stridulo delle cavallette faceva vibrare l'immensa prateria. Un flebile ronzio proveniva dagli alberi in riva al ruscello. Tutti quei suoni formavano un fantastico, caldo, gioioso silenzio. Laura non aveva mai visto un posto che le piacesse così tanto. Non si rese conto di essersi addormentata finché non si svegliò. Jack, accovacciato ai suoi piedi, agitava la coda mozzata. Il sole era basso e papà era di ritorno attraverso la prateria. Laura balzò in piedi e gli corse incontro. L'ombra di papà si allungò verso di lei, tra le onde di erba. Sollevò il bottino di caccia che teneva in mano perché lei potesse vederlo. Aveva un coniglio, il coniglio più grosso che Laura avesse mai visto, e due paffute galline della prateria. Laura saltellava e urlava battendo le mani, poi gli afferrò l'altra manica e saltellò nell'erba, alta, insieme a lui. Questo paese è pieno zeppo di selvaggina, le disse papà. Non ho visto un cervo, ne ho visti 50, e antilopi, scoiattoli, conigli, uccelli di ogni tipo, e il ruscello è pieno di pesci, te lo dico io, Caroline, disse rivolgendosi a mamma. Qui c'è tutto quello che possiamo desiderare. Possiamo fare una vita da re. La cena fu deliziosa. Sedettero tutti intorno al fuoco e mangiarono carne tenera e saporita a volontà. Quando alla fine Laura posò il suo piatto, sospirò di gioia. Non desiderava nient'altro al mondo. Gli ultimi colori si stavano sbiadendo nel cielo immenso e tutta la pianura era avvolta nell'ombra. Il calore del fuoco era piacevole perché il vento della notte era freddo. Il triste richiamo dei febbri orientali arrivava dal bosco in riva al ruscello e per un po' si sentì cantare un tordo. Poi spuntarono le stelle e gli uccelli tacquero. Il violino di papà cantò sotto le stelle. A volte papà cantava, altre volte il violino cantava da solo. Dolce, lieve, lontano, Da tutto. Il violino continuava a cantare. Chi ti conosce non può chiamarti. Sei l'amore del mio cuore. Le grandi stelle luccicanti stavano appese al cielo. Scesero, sempre più in basso, vibrando al ritmo della musica. Laura trasalì e mamma arrivò subito. Cosa c'è? Laura chiese. Laura sussurrò. Le stelle stavano cantando. Ti sei addormentata, è solo il violino. E per voi bambine è ora di andare a dormire. Svestì Laura alla luce del fuoco, le mise la camicia da notte, le annodò la cuffia e le rimboccò le coperte. Ma il violino cantava ancora sotto le stelle. La notte era piena di musica e Laura era sicura che parte di essa provenisse dalle grandi stelle splendenti che si dondolavano proprio sopra la prateria.